Mr. Bloom, come va? Oh, e lei, Mrs. Breen? È inutile lamentarsi. E Molly, come se la passa? È un secolo che non la vedo. Benone, disse allegramente Mr. Bloom. Millie ha un posto giù a Mullingar, sa? Ma no, non è una bellezza per lei? Sì, da un fotografo. Va avanti come un direttissimo. E come stanno i marmocchi? Dal lavoro al fornaio, disse Mrs. Breen. Quanti ne ha? Nessun altro in vista. Lei è nero, vedo. Non ha mica. No, disse Mr. Bloom. Vengo ora da un funerale. Me lo domanderanno tutto il giorno, mi par di sentirlo. Chi è morto? Quando? E di che cosa? Seguiterà a tornar fuori come una moneta falsa. Oh, poveri noi, disse Mrs. Breen. Spero che non sia qualche parente stretto. In fondo, perché non commuoverla un po'? Dignam, disse Mr. Bloom. Oh, mio vecchio amico. È morto improvvisamente, poveretto. Mal di cuore, credo. Il funerale era stamattina. Domani ti sotterrano mentre vieni dal campo di Segala. Trallerallera, tam tam, trallerallera. È triste perdere i vecchi amici, dissero malinconicamente gli occhi donneschi di Mrs. Breen. Ora basta con l'argomento. Passiamo pian piano ad altro. Il marito. E il suo sposo e signore? Mrs. Breen alzò i due grandi occhi. Quelli comunque non li ha perduti. Oh, non me ne parli, disse. È un tipo da pigliarsi con le molle. È là dentro ora, con i suoi libracci di legge, a studiarsi la legge sulla diffamazione. Mi ha avvelenato l'esistenza. Aspetti che le faccio vedere. Vapore di zuppa calda di testina di vitello e aroma di brioche alla marmellata appena sfornate esalavano da Harrison. Il pesante lezzo meridiano stuzzicava la parte alta della gola di Mr. Bloom. Per far della buona pasticceria ci vuol burro, fior di farina, zucchero di canna, se no si sente con il tè caldo. O viene da lei? Un monello scalzo stava sopra la griglia ad aspirare le esalazioni. Smorza il morso della fame in quel modo. È un piacere o una pena? Pranzo da un penny, coltello e forchetta legati alla tavola. Apre la borsetta, cuoio sbrecciato, spillone da cappello. Quei cosi dovrebbero avere un salvapunta. Infilarlo nell'occhio di qualcuno in tramvai. Fruga dentro, aperta. Denaro, campione gratuito. Indemoniate se perdono una monetina. Un putiferio dell'altro mondo. Il marito ci ficca il naso. Dove sono i 10 scellini che ti ho dato lunedì? Dai da mangiare ai figli del tuo fratello minore. Fazzoletto sporco, boccetta di medicinali, una pasticca quella che è caduta. Che diavolo? Deve essere la luna nuova, disse. Sta sempre peggio allora. Sa cosa ha fatto ieri notte? La mano smise di frugare. Gli occhi si fissarono su di lui, sbarrati per apprensione, eppure sorridenti. Cosa? Chiese Mr. Bloom. Che parli. Guardala dritto negli occhi. Ti credo. Fidati di me. Mi ha svegliato di notte, disse. Un sogno che ha fatto, un incubo, sullo stomaco. Diceva che l'asso di picche stava salendo le scale. L'asso di picche? Disse Mr. Bloom. Tirò fuori dalla borsa una cartolina ripiegata. Legga, disse. L'ha avuta stamani. Cos'è? Chiese Mr. Bloom prendendo la cartolina. S.U. S.U. Su, disse lei. Qualcuno che lo prende per il bavero. Chi l'ha fatto dovrebbe vergognarsi. Davvero, disse Mr. Bloom. Lei riprese la cartolina sospirando. E ora vuole andare allo studio di Mr. Menton. Farà causa per 10.000 sterline, dice lui. Ripiegò la cartolina nella borsetta caotica e fece scattare la chiusura. Stesso abito di lanina azzurra che aveva 2 anni fa, col pelo stinto. Visto giorni migliori, ciuffi ispidi sulle orecchie. E quel cappellino scalcinato, 3 vecchi grappoli d'uva per farlo sembrare meno peggio. Decorosa miseria. Si vestiva con gusto una volta. Rughe attorno alla bocca. Solo 1 anno o 2 più vecchia di Molly. Guarda che occhiata le ha lanciato quella donna passando. Crudele. sesso non gentile. La guardò ancora, nascondendo dietro lo sguardo un senso di fastidio. Piccanti testina di vitello, coda di bue, brodo di pollo. Ho fame anch'io. Scaglie di pasta dolce sul gherone del vestito. Sbaffo di farina zuccherosa sulla gota. Torta al rabarbaro abbondantemente riempita, interno ricco di frutta. Josie Powell era, da Luke Doyle tempo fa, Dolphin's Barn. Le sciarade. S.U. Su. Cambiare argomento. «Vede mai Mrs. Beaufoy?» chiese Mr. Bloom. «Mina Purfoy?» disse lei. «Philip Beaufoy, stavo pensando, club degli spettatori. Matcham pensa spesso al colpo da maestro. Ho tirato la catena. Sì, l'ultimo atto. Sì, ho fatto una capatina strada facendo per sentirsi era già finito. È alla maternità o Leicester Street. Il dottor Horn l'ha fatta entrare. È 3 giorni che ha le doglie.» «Oh», disse Mr. Bloom, «mi spiace davvero.» «Sì», disse Mrs. Brain, «è una carrettata di figlioli a casa.» «È un parto molto laborioso», m'ha detto l'infermiera. «Oh», disse Mr. Bloom. Il suo sguardo pesante e pietoso assorbì l'informazione. La sua lingua schioccò compassionevole. «Mi spiace davvero», disse. «Poveretta, 3 giorni. Deve essere terribile.» Mrs. Brin annuì. «Ne sono cominciate martedì.» Mr. Bloom le toccò leggermente il gomito, in segno d'avvertimento. «Attenzione, lo lasci passare.» Una sagoma ossuta camminava a grandi passi lungo l'orlo del marciapiede, venendo dal fiume, fissando con sguardo rapito il sole attraverso una lente spessa legata a un nastro. Aderente come una calotta, un cappelluccio gli stringeva la testa. Dal braccio uno spolverino ripiegato, un bastone e un ombrello pendevano ondeggiando ritmicamente. «Lo guardi», disse Mr. Bloom. «Cammina sempre all'esterno dei lampioni. Guardi.» «Chi è, se è lecito?» chiese Mrs. Brin. «È un po' tocco.» «Si chiama Cashel Boyle O'Connor Fitzmaurice Tisdale Farrell», disse Mr. Bloom sorridendo. «Lo guardi.» «Ne ha di nomi», disse lei. «Dennis si ridurrà così uno di questi giorni.» Si interruppe a un tratto. «Eccolo», disse. «Bisogna che gli vada dietro. Addio. Mi ricordi a Molly, mi raccomando.» «Stia certa», disse Mr. Bloom. La vide sgusciare tra i passanti verso le vetrine. Dennis Brin, nella sua zimarruccia e scarpe di tela azzurra, uscì trascinando i piedi da Harrison, stringendosi contro le costole 2 pesanti tomi. «Un relitto dalla baia, come nei tempi antichi.» Lasciò che lei lo raggiungesse senza sorpresa e spinse verso di lei la barbetta grigia, con la mandibola cadente, che gli tremolava nel parlare. «M'asciugà, gli mancano dei venerdì.» Mr. Bloom seguitò tranquillamente a passeggiare, vedendo davanti a sé in piena luce la calotta stretta, ombrello, bastone, spolverino, ciondoloni. «Fa la 2 giorni. Guardalo, scende un'altra volta. Un modo come un altro di andare avanti nel mondo. E quell'altro vecchio pazzo rincoglionito con quegli stracci addosso. Se la deve passar male con lui. S.U. su. Giurerei che è stato Alf Bergan o Richie Goulding. L'hanno scritta per scherzo all'osteria. Ci scommetterei qualsiasi cosa. Via, allo studio di Menton. Gli occhi da ostrica fissi sulla cartolina. Uno spettacolo di prim'ordine.» Passò davanti all'Irish Times. «Ci potrebbero essere altre risposte in giacenza. Sarebbe bello rispondere a tutte. Buon sistema per i criminali, codice cifrato. Ora a colazione. L'impiegato con gli occhiali non mi conosce. Oh, lasciamole lì a cuocere nel loro brodo. È stato già abbastanza seccante ripassarne 44. Cercasi, dattilografa bella presenza come aiuto per lavoro letterario. Ti ho chiamato ragazzaccio perché quell'altro mondo non mi piace. Dimmi per piacere cosa vuol dire. Dimmi che profumo usa tua moglie. Dimmi chi ha fatto il mondo.» «Che modo hanno di farti domande a bruciapelo.» «E quell'altra, Lizzie Twigg, I miei tentativi letterari hanno avuto la fortuna di incontrare l'approvazione dell'illustre poeta A.E., Mr. George Russell. Non ha tempo di farsi capelli a forza di bere tè acquoso con un libro di poesia in mano. Il miglior giornale di gran lunga per un annuncio economico. Diffuso in provincia ora. Cuoca tutto fare, cucina rifinita, con cameriera. Cercasi uomo attivo per mescita. Signorina seria, cattolica, considererebbe impiego presso fruttivendolo o norcineria. Lanciato da James Carlyle. Dividendo del 6,5%. Ha fatto un affarone con le azioni di Coats. Furbacchione. Sotto sotto, vecchio filone di un avaraccio scozzese. Tutte le notizie da Leccascarpe. La nostra graziosa e popolare vice regina. Comprato l'Irish Field ora. Lady Mountcashel si è completamente ristabilita dopo il recente lieto evento ed ha partecipato ieri alla caccia al cervo organizzata dalla World Union Arethoth, volpe incommestibile. Cacciatori di professione per riempir la pentola. La paura inietta nell'animale certi succhi che rendono la carne tenera a dovere. A cavalcioni, cavalca da uomo, cacciatrice che supera ogni handicap. Né sella da amazzone né cuscinetto per lei, non si scherza. Prima al raduno dei cacciatori è presente al colpo di grazia. Forti come cavalle di razza alcune di queste donne cavallerizze. Fa mostra di sé nei maneggi. Ingollano un bicchierino di brandy liscio nel tempo di dirai. Quella del Grosvenor, stamani. Su con lei in vettura, opla! Fa volare il cavallo di là del muretto del cancello a 5 sbarre. Io dico che quel tranviere dal naso rincagnato l'ha fatto per dispetto. Ma a chi diavolo assomigliava? Ah sì, a Mrs. Miriam d'Andrade, che mi ha venduto le sue vesti usate e gli indumenti intimi neri all'albergo Shelburne. Una divorziata ispano-americana. Non batteva ciglio mentre li maneggiavo, come se fossi stato il suo attaccapanni. La vidi alla festa del viceré, quando Stubbs, la guardia forestale, mi fece entrare insieme a Whelan dell'Express, per razzolare quel che aveva lasciato il bel mondo. Tè guarnito. La maionese che versai sulle susine credendo fosse crema. Le devono essere fischiate le orecchie per qualche settimana. Le ci vorrebbe un toro. Nata cortigiana, non è tipo da fare la bambinaia, no, davvero. Povera Mrs. Purfoy, marito metodista, metodo nella sua pazzia. Colazione con panini allo zafferano e latte e acqua di Sels nella latteria modello, IMCA. Mangiare a cronometro, 32 masticate al minuto. Eppure i suoi basettoni sono prosperosi. Si dice che abbia parenti influenti. Il cugino di Teodoro al castello di Dublino. Un membro decorativo in ogni famiglia. Gliene fa scodellare uno all'anno. L'ho visto davanti ai 3 gaibeoni che marciava a testa scoperta e il figlio maggiore portava un fratellino nella reticella della spesa. Quei marmocchi. Povera creatura. E poi dover allattare un anno dopo l'altro a tutte le ore della notte. Egoisti. Quegli astemi, il beato porco, una zolletta di zucchero soltanto nel mio tè per piacere. Si fermò all'incrocio con Fleet Street. Intervallo, colazione da 6 pence da Row. Devo cercare quell'annuncio nella Biblioteca Nazionale. Per 8 pence da Barton, meglio, è sulla strada. Oltrepassò il negozio di Westmoreland di Bolton. Tè, tè, tè. Mi sono dimenticato di abbordare Tom Kernan. 3 giorni. Pensa un po'. A gemere a letto con un fazzoletto inzuppato d'aceto intorno alla testa. La pancia gonfia. Spaventoso. La testa del bambino troppo grossa. Forcipe. Ripiegato in due dentro a lei cercando ciecamente di farsi avanti, brancolando per uscire. Me mi ammazzerebbe. Fortuna che Molly se l'è cavata facilmente. Dovrebbero inventar qualcosa per farla finita. Vita coi lavori forzati. Quell'idea della semianestesia. Alla regina Vittoria gliela fecero. 9 ne ha avuti. Gallina da uova. La vecchia che vivea dentro una scarpa ed avea tanti figlioli. E se lui fosse tisico? È ora che qualcuno ci pensi, invece di rompere le tasche con che diavolo era il seno pensoso dei rai d'argento. Datela a bere ai fessi. Si potrebbero avere facilmente delle grandi istituzioni. Il tutto senza dolore. Da tutte le imposte, ricavare per ogni neonato 5 sovrane a interesse composto fino ai 21 anni. 5% fa 100 scellini. E le 5 famose sterline, moltiplicar per 20, sistema decimale, incoraggiare la gente a mettere i soldi da parte, risparmiare 100 e 10 e un pochino ancora, 21 anni. Bisogna che lo rifaccia per iscritto. Vien fuori una bella somma, più di quel che si pensi. Niente nati morti, naturalmente. Non si registrano neanche. Fatica sprecata. Buffo a vederle insieme, con la pancia in fuori. Molly e Mrs. Moisel. Incontro di madri. La tisi sparisce per il periodo, poi si ripresenta. Come sembran piatte dopo, tutto un tratto. Occhi placidi. Si son levate un bel peso di dosso. La vecchia Mrs. Thornton era un bel tipo davvero. Tutti i miei figli, diceva. Assaggiava la pappina prima di dargliela. Oh, è proprio yum yum. Il figlio del vecchio Tom Wall le schiacciò la mano, la sua prima apparizione in pubblico. Testa come una zucca da primo premio. Quel tabaccone del dottor Marran. E la gente che li sveglia a tutte l'ore. Per l'amor di Dio, dottore. Moglie con le doglie. Poi, prima di pagarli, li fanno aspettare mesi e mesi. Per assistenza alla signora non c'è gratitudine. I dottori sono umani, la maggior parte. Davanti al gran portone del Parlamento irlandese, uno stormo di piccioni si alzò in volo. Il loro passatempo dopo i pasti. Addosso a chi la faremo? Io scelgo quel tale in nero. Eccoci, alla tua salute. Deve essere eccitante farla per aria. Up John, io e Owen Goldberg sugli alberi vicino a Goose Green a giocare alle scimmie. Mi chiamava Anghiozzo.